Mai come oggi è così importante prepararci al matrimonio. Non si può seguire solamente il proprio cuore, poiché l'esperienza ha più volte confermato che è vero ciò che dice l'eterna parola di Dio. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Geremia 17:9. Quando ci si sposa occorre considerare l'età, la cultura, la nazionalità, dato che con l'andare del tempo, queste cose si ripercuotono nel rapporto della coppia. Nonostante ciò, questi particolari non sono ostacoli insormontabili per contrarre un matrimonio. Mentre questi sono problemi valevoli per tutti, il cristiano che desidera sposarsi ne ha un altro molto più serio e molto più importante, dal quale, secondo il modo in cui lo risolve, dipende la sua crescita spirituale, la gioia familiare, la testimonianza e l'ubbidienza alla volontà di Dio. Mi riferisco al matrimonio misto, cioè lo sposarsi con una persona che non è nata di nuovo o che si definisce cristiana pur avendo una fede fondata su principi teologici in contrasto con l'insegnamento di Cristo. Esaminiamo dunque alla luce della parola di Dio questo argomento. L'Apostolo Giovanni divide la razza umana in due grandi famiglie, i figli di Dio e i figli del diavolo. 1 Giovanni 3 e 10. Nel mondo ciò che distingue una famiglia da un'altra sono i modi di comportarsi, le abitudini, il linguaggio, la religione, la politica e tante altre cose che vengono stabilite dai genitori. Questo è valevole anche nel campo spirituale. Appartengono alla famiglia di Dio tutti coloro che hanno accettato la volontà di Dio, tutti coloro che sono disposti a lasciare modellare il proprio comportamento di vita secondo i principi eterni della Scrittura. Tutti quelli invece che vivono secondo i desideri del loro cuore, secondo i propri criteri o dell'opinione pubblica, e non si sottomettono al volere di Dio, appartengono al diavolo. Figli di nessuno non ce ne sono. Come mai ci sono queste due famiglie? Una scelta di Dio o dell'uomo? Una cosa è certa. Quando l'Eterno Dio creò Adamo ed Eva, c'era una sola famiglia. Adamo ed Eva ebbero tanti figli, fra i quali Caino e Abele. Tutti vivevano secondo il volere del Creatore, ma un giorno Caino uccise Abele e l'Eterno Dio lo cacciò dalla sua presenza. In seguito leggiamo che Caino si partì dal cospetto dell'Eterno, cioè si condusse in maniera contraria al volere di Dio, dando avvio ad una generazione che non viveva secondo la volontà del Creatore. Infatti, quando troviamo per la prima volta nella Scrittura che un uomo ebbe due mogli, è proprio nella genealogia di Caino. Più tardi, Adamo ed Eva ebbero un altro figlio di nome Set e la sua stirpe invocò il nome dell'Eterno. Il capitolo 5 della Genesi dimostra appunto che Noè, uomo giusto e integro, camminò con Dio. Veniva proprio da questa famiglia. Al tempo di Noè, dunque, c'erano queste due grandi famiglie, o clan, o gruppi sociali, quelli discendenti da Caino e quelli discendenti da Set. Non deve quindi stupire la lettura del capitolo 6. I figli di Dio, vedendo che le figlie degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che fra tutte piacquero loro di più. Genesi 6, 2. Questa proposizione, spesso mal interpretata, vuol dire che i discendenti di Set, i quali seguivano l'Eterno, si sposarono con le donne discendenti di Caino, cioè donne incredule. Questo fatto di per sé non sembra molto grave, ma non è a caso che la Scrittura subito dopo fa notare che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Versetto 5. Non essendoci più una separazione tra le due famiglie, credenti e increduli, i discendenti di Set fecero ciò che dispiaceva all'Eterno e non furono più un freno alla malvagità degli uomini. Così i seguaci dell'Eterno mescolarono la loro fede e produssero in Dio un sentimento tale da dire: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Dal diluvio si salvarono i figli di Noè, e la Scrittura non ci disse se essi seguirono la fede del loro padre. Quel che si sa è che gli uomini più tardi disubbidirono al volere dell'Eterno di spargersi sulla terra, cosicché egli dovette confondere il loro linguaggio. Al capitolo 11 abbiamo la posterità di Sem fino alla chiamata del padre dalla fede. Abramo, Atti 7:2. Al tempo di Abramo regnava l'idolatria, il politeismo. Era molto difficile distinguere in questa confusione di fedi chi seguiva l'Eterno, e nella sua sapienza l'Eterno chiamò Abramo 1 perché andasse in una terra che non conosceva, 2 perché il suo cammino fosse distinto dal timore dell'Eterno, 3 perché egli fosse il capostipite di un popolo la cui fede era solo nel Dio creatore del cielo e della terra, il Dio della fede di Noè, di Sem, di Abele. Abramo ebbe un figlio di nome Isacco, e quando questi era nell'età di 40 anni, il padre mandò il suo servo a cercargli una moglie. Le sue parole furono precise: non prendere per moglie al figliolo alcuna delle figliole dei cananei fra i quali io dimoro. Andrai al mio paese e al mio parentado, e vi prenderai una moglie per il mio figliolo. Genesi 24:3. Sarebbe stato molto comodo per Abramo scegliere per suo figlio una donna cananea dal momento che abitava fra i cananei, ma egli non voleva che Isacco mescolasse la sua fede con un matrimonio sbagliato. E così fu. Isacco ebbe due figli, Esaù e Giacobbe. Esaù prese due mogli discendenti dalla famiglia di Cam, ed esse furono ragione di amarezza d'animo a Isacco e Rebecca. Genesi 26:34. Allora Rebecca disse a Isacco: lo sono disgustata della vita a motivo di queste figliole di Het. Se Giacobbe prende in moglie tra le figliole del paese una donna come quelle, che mi giova la vita? Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine: non prendere moglie tra le figliole di Canaan. Levati, vattene in Paddan Aram alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi moglie là tra le figliole di Labano, fratello di tua madre. Genesi 27:46, 28:1-2. E così Giacobbe fece. Passarono molti anni, e dopo una vita abbastanza travagliata, Giacobbe accettò la fede di Abramo e Isacco, facendosi un altare e chiamandolo El Eloi Israel, cioè Dio è il Dio di Israele. Genesi 33:2-0. Dopo questo, Giacobbe ordinò ai suoi familiari, che in quel tempo avevano raggiunto il centinaio di persone, di togliere tutti gli dèi e di vivere e servire il Dio che gli era apparso e che gli aveva parlato. Genesi 35:2. Passarono molti anni e quel pugno di israeliti divenne una nazione sotto il dominio del popolo egiziano. Dio lo liberò dalla schiavitù mediante il potente profeta Mosè, il quale condusse il popolo verso la terra promessa. Al monte, Yahweh diede i 10 comandamenti e tante altre leggi, tra le quali dispose pure ordini intorno al matrimonio. L'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Guardati dal far lega con gli abitanti del paese, affinché, quando quelli si prostituiranno ai loro dei e offriranno loro sacrifici, non avvenga che si ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici, e prenda delle loro figliole per i tuoi figlioli, e le loro figliole si prostituiscano ai loro dei, e inducano i tuoi figlioli a prostituirsi ai loro dei. Esodo 34:15-16. L'ordine del geloso era chiaro. In caso di disubbidienza in relazione al matrimonio, gli israeliti si sarebbero esposti alla possibilità di allontanarsi dalla giusta fede. Tentazioni inutili. Dopo 40 anni dall'uscita dall'Egitto, il popolo arrivò ai confini della terra promessa, nelle pianure di Moab. Molto probabilmente la nuova generazione aveva dimenticato l'avvertimento dell'Eterno e accettò l'invito delle donne, spinte a loro volta dall'indovino Balaam, Apocalisse 2:14, di partecipare ai sacrifici offerti ai loro dei, Numeri 25:1-3. A causa di questo peccato, morirono 24.000 persone. E così Mosè, quando ricorderà di nuovo prima di morire la legge di Dio, ripeterà: quando l'Eterno, il Dio tuo, ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne possesso e ne avrà cacciato dinanzi a te molte nazioni, non farai con esse alleanza. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figliole ai loro figlioli e non prenderai le loro figliole per i tuoi figlioli, perché stornerebbero i tuoi figlioli dal seguire me per farli servire a dei stranieri. Deuteronomio 7:1-4. La legge che l'Eterno Dio ha data per mezzo di Mosè si è quindi interessata più di una volta della sfera del matrimonio. Esso doveva essere celebrato senza mescolanza di fedi. Il popolo di Israele passa il Giordano alla testa del suo grande condottiero Giosuè, e il libro che porta il suo nome ci racconta le grandi imprese di questo popolo. Anche Giosuè, prima di morire, avverte il popolo di essere integro nelle vie dell'Eterno, e soprattutto quello che riguarda il matrimonio. Mettete in pratica tutto ciò che è scritto nella legge di Mosè, senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra voi, perché se vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi, e vi imparentate con loro, e vi mescolate con esse ed esse con voi, siate ben certi che esse diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine agli occhi vostri. Anche Giosuè vedeva il matrimonio misto come una ragione fondamentale per il fallimento del suo popolo, sia dal lato spirituale sia politico. Mescolare la vera fede equivaleva a procurarsi tentazioni e dolori. Inutili dolori. Ma se ci fu un comandamento che Israele non osservò fu proprio quello del matrimonio. Perfino Salomone, l'uomo più saggio della terra, cadde in questa chiara trasgressione. E la scrittura ci dice che, oltre alla figliola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittee, donne appartenenti ai popoli dei quali l'Eterno aveva detto ai figlioli di Israele, non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. Infatti la scrittura continua nel dire, al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno. E l'Eterno disse a Salomone, giacché tu hai agito a questo modo, e non hai osservato il mio patto e le leggi che t'avevo dato, io ti strapperò di dosso il reame, e lo darò al tuo servo. 1 Re 11, 1 a 2. Anche se la vita di Salomone fu grandemente benedetta, il suo peccato lo aveva ritrovato. Numeri 32, 23. Quindi, la vera causa della divisione delle tribù di Israele è stata l'idolatria, e questa fu provocata anche dai matrimoni misti di Salomone. Quando la cellula fondamentale della società è malata, cioè il matrimonio, anche tutta una nazione ne porta le conseguenze. E, senza paura di commettere errori di valutazione, possiamo affermare che Israele fu cacciato dalla terra. Promessa causa ai matrimoni sbagliati, dato che la vera ed unica fede nell'Eterno era stata abbandonata per mescolarla con quelle delle altre nazioni. Passarono molti anni e l'Eterno Dio ebbe compassione facendo ritornare il suo popolo nella terra promessa. Come il popolo riuscì a trovare la sua identità religiosa, si rese conto che era stato infedele nell'avere sposato donne straniere. E questo non era stato commesso dai poveri del paese, da persone senza istruzione, ma soprattutto dai leviti, dai sacerdoti, dai capi e dai magistrati, da coloro cioè che dovevano essere di esempio alla nazione. Esdra 9, 1 a 2. E anche quando più tardi si costruirono le mura sotto la guida di Neemia, si ripropose il problema del matrimonio, perché sposandosi con donne straniere la metà dei loro figlioli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Neemia 13 e 23. Avevano perso non solo la loro identità spirituale, ma anche quella nazionale. Non stupisce quindi che anche l'ultimo profeta dell'antico patto, fra i tanti rimproveri che rivolge al suo popolo, dica «Giuda agisce perfidamente». È una cosa abominevole, cioè spregevole, si commette in Israele e in Gerusalemme, perché Giuda ha profanato il santuario che Dio ama, sposando donne appartenenti a un Dio straniero, Malachia 2:11. Parole forti, ma Israele era una famiglia che aveva per padre l'Eterno, e ogni atto che danneggiava l'integrità e la purità di questa famiglia era un'offesa alla santità di Dio, una violazione del patto, fermato da Yahweh con i padri del suo popolo. Gli scrittori del Nuovo Testamento erano a conoscenza degli scritti dell'Antico Patto. È evidente che nei loro scritti essi non ripetevano le cose già dette chiaramente a più riprese, per cui certe verità venivano solo riprese per confermare il pensiero divino. Quindi, anche per quello che riguarda il matrimonio, non si trovano divieti a sposare persone di altre fedi, dal momento che l'Eterno aveva già detto abbastanza al riguardo. Una cosa però è importante sottolineare: con la venuta di Gesù è stata abolita la differenza tra giudei e gentili, non c'era più una nazione privilegiata. Ma a tutti quelli che credono che Gesù è il loro unico Salvatore, Dio dà il diritto di diventare suoi figli. In questo modo la famiglia di Dio non è più nazionale, anche se nel vecchio patto non era sufficiente appartenere al popolo ebraico, ma è spirituale. Così, per sapere oggi se uno appartiene a Dio oppure no, è ancora più difficile di un tempo, e specialmente nella nostra nazione italiana dichiarata cristiana. Forse qualcuno per questo motivo si sentirà scusato se eventualmente non sceglierà un figlio di Dio, ma, come dice l'Apostolo Paolo, il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. 2 Tim 2:19. Paolo cita due passi dell'antico patto che non possono essere divisi perché, se è vero che solo Dio conosce quelli che sono suoi, è anche vero che i cristiani sono riconoscibili dalle loro opere. Se si ritraggono dall'iniquità, cioè se non fanno ciò che la parola di Dio dichiara peccato, allora sono figli di Dio, perché tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. 1 Giovanni 2:29. E, su questa linea di pensiero che Paolo, parlando ai Corinzi che avevano delle relazioni permanenti con dei pagani fra le quali anche i matrimoni, li ammonisce severamente: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza ha finto è egli fra la giustizia e l'iniquità? La risposta è abbastanza ovvia, ma l'Apostolo non si ferma qua e, considerando che il cristiano è tale perché ha Cristo nel cuore, perché è fedele ai comandamenti di Dio, perché è una luce in questo mondo che giace nelle tenebre, dirà ancora: o qual comunione vi è fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar, un nome del diavolo, o che vi è di comunione tra il fedele e l'infedele? 2 Corinzi 6:14-16. La risposta è: nessuna. Ebbene, considerare che l'Apostolo Paolo non ritiene il non credente, l'infedele, che è nelle tenebre sotto il dominio di Satana, una persona necessariamente moralmente degradata. Vi sono persone in questo mondo atee e religiose che hanno anche una buona morale, ma quello che Paolo vuol dire è che il cristiano non può avere armonia, comunione o intesa con chi non ha messo Dio al primo posto. Ora, il matrimonio kos è se non un'armonia, una speciale intesa, una profonda comunione tra due persone. E, pur questo che Paolo terminerà il suo ammonimento dicendo: purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. 2 Corinzi 7:1. In un vero e profondo matrimonio, non solo il nostro corpo deve unirsi ad un altro che appartiene a Dio, ma pure lo spirito, cioè la nostra vita spirituale, i nostri pensieri, tutto ciò che appartiene al campo spirituale. Com'è possibile se uno è figlio di Dio e un altro figlio di Satana? Il matrimonio misto non è contemplato in alcuna parte della parola di Dio. Anzi, esso viene definito un peccato almeno 8 volte. Esdra 9:2-4, 12:2-6, 10:13-19, Neemia 13:26. Vi è una sola eccezione dove il matrimonio misto non è un peccato: il caso in cui un coniuge viene a conoscenza dell'Evangelo e si converte. In questo modo il matrimonio misto non è stata una scelta, ma è diventato il risultato di una conversione a Dio. 1 Corinzi 7. Tale matrimonio deve durare finché l'incredulo abbandona il credente. Solo in seguito egli è libero di risposarsi, ma sempre secondo il principio eterno di Dio, nel Signore, 1 Corinzi 7:39, cioè sposare un cristiano. E questo perché non esiste un matrimonio cristiano, ma esiste il modo cristiano per celebrare il matrimonio. E il modo cristiano per celebrare il matrimonio è sposare una persona che ha realizzato la nuova nascita, che è figlia di Dio. Chi sottomette i propri sentimenti ai principi di Dio eviterà molti dolori. Il re Acab è tristemente famoso per essere stato l'uomo più malvagio dei suoi tempi. E la scrittura sottolinea perché era istigato da sua moglie Izebel, cioè una donna pagana. È dunque vero che chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scanterà, Proverbi 28:26. Chi sposa una figlia del diavolo prima o poi avrà dei problemi con suo suocero. Un'ultima cosa. Sono importanti gli articoli che ci portano a conoscenza della verità, ma se agli articoli fa seguito una testimonianza, l'efficacia è moltiplicata. Quindi, se tutti coloro che hanno contratto un matrimonio misto e si sono resi conto di aver sbagliato, ammettessero davanti ai figli e alla Chiesa la loro disubbidienza a Dio, cioè il loro peccato, questo renderebbe giustizia alla parola di Dio. E i giovani che hanno il problema del matrimonio misto sarebbero incoraggiati più che mai a non seguire il loro esempio. Una confessione di peccato, oltre a glorificare Dio, è una potente arma dello Spirito Santo ad insegnare ai giovani a non conformarsi alla mentalità di questo secolo. Romani 12:2. Se tu che leggi non hai affidato la tua vita a Dio, ti invito a farlo ora perché la riuscita del tuo matrimonio dipende dalla relazione che hai con Dio. Se invece ti dichiari cristiano, allora hai affidato il tuo futuro nelle mani di Dio e in questo futuro, se non hai il dono del celibato, Matteo 19:11, ci è anche la scelta del coniuge e, con questa scelta, dimostrerai se ami Dio sopra ad ogni cosa. 198. Ellero,